Graziella Ok, siamo 11. a Graziella 11, è il 4 luglio, sono le 19:54, stiamo prendendo l'aperitivo e tra poco andiamo al cinese. Rispetto a Radio Popolare, che era dentro Graziella 10, Graziella voleva dirci qualcosina in più. Che una anche dei motivi di scazzo, forse neanche ben espresso, forse bofonchiato, come faccio io a volte quando magari sono delle situazioni che per me sono visibili ma difficili anche da spiegare il perché e il per come. Secondo me c'era anche molto maschilismo dentro la radio, quindi il fatto che fosse una donna non era indifferente, perché a prescindere il maschio era più capace. Mi ricordo quella volta, tipo, pagati eravamo due, quell'altro era pagato il doppio di me, perché in realtà lui era uno distaccato dal sindacato, quindi Quindi lo pagava il sindacato. no, lo pagava la radio perché il sindacato si è prestato a distaccarlo. Lui era un dirigente della Mondadori, tra l'altro, un ragazzo che era già dirigente della Mondadori, perché non era evidentemente il signor nessuno di quanti attualmente fa il docente universitario, quello a Pisa, Livorno, non mi ricordo che roba. E lui pigliava 400 euro al mese, io invece ne pigliavo 200, e lui era il direttore della radio. Cioè, che a me nulla in contrario, ma per me non era la persona adatta. E mi ricordo, mi incazzai tantissimo, perché quello che volevano dare da intendere era che lui era un maschio, quindi aveva certe abilità e così via. Due volte mi capitò di andare alla mattina un po' a corsa perché lui doveva aprire e la radio non usciva, non si sentiva, cioè, non so cosa è successo, non so cosa è successo. Vado a vedere, all'epoca la notte c'era il nastro continuo, lui aveva messo il nastro continuo senza farlo passare dalle testine, cioè, e io mi incazzavo Ma tantissimo. questa superiorità maschile, supposta superiorità maschile, te lo chiedo perché mi interessa, essendo io ora una radio, era sicuramente sulle cose tecniche, penso, no? Come, cioè si pensava che le donne non sapessero Sì, fare c'era le cose, e questa. anche sulla politica? Secondo me sì. Infatti io in realtà andavo benissimo a raccattare soldi. Cioè, sull'economia invece veniva riconosciuta una maggiore abilità della donna, perché era una brava madre di famiglia che sapeva gestire i soldi, cosa che io non sapevo fare, tra parentesi. Io non ho mai saputo gestire i soldi, però sapevo trovarli. Però ecco, non era solo la cosa specifica, era una radio a maggioranza maschile. Mi ricordo una volta feci una sceneggiata enorme, una domenica, il nipote del famoso consigliere comunale socialista in qualche modo ci toccò tenercelo. Quindi lui con due suoi amici faceva un programmino la domenica pomeriggio, tanto nessuno di noi voleva andare la domenica pomeriggio in radio. E stava anche bene, una cosa rivolta ai giovani, anche se non era granché politicizzata, però gli si dissero due o tre cose, quindi certe cose non uscivano, andava anche bene, piuttosto del nastro, era meglio sti ragazzini. Non so cosa, dissero una battuta che non andava bene, un po' sopra le righe, un po' maschilista, rivolti a una che aveva telefonato, quindi io mi incazzai, li chiamai, mi ricordo, che dissi pronto? E quello dall'altra parte, hey baby, io guarda, cioè potevo essere chiunque, fra l'altro non ero una sua baby, cioè ero una che era in radio, quindi fra l'altro lo stavo chiamando per richiamare. Per richiamarlo su quello. Esatto, su quello, cioè quindi tu mi stai dicendo che a tutte le voci femminili te ne dici hello baby, come se fosse la tua bambolina, non ha più trasmesso, credo, no, poi ha ritrasmesso, ma credo che sia stato in castigo un paio di mesi. Cioè, perché comunque se non lo facevo io questo, non c'era qualcun altro che lo facesse. Cioè, io lo sentì per caso, ma quante cose mi saranno sfuggite. Non è che potessi fare la vestale della radio che stava attenta che non uscissero dei contenuti. Per carità, nessuno poi ha osato dire no, ma perché sei esagerata? Il problema era, metteva in imbarazzo me, oltretutto. Cioè, non era un compito mio e basta, solo perché ero una donna dovevo difendere la categoria, non era quello. Cioè, è che ti qualifichi politicamente come radio anche attraverso queste cose, anzi, forse soprattutto attraverso queste cose. Quindi erano tanti i motivi per cui a me diventava sempre più pesante la situazione. Quando poi hanno cercato palesemente di farmi fuori dalla redazione, dall'aspetto politico, comprandomi, cioè quello è stato troppo, ho detto, cioè, non fa per me. Te ne sei andata a cercare un altro lavoro? E ho detto, e ora cosa faccio? Non c'ho né arte né parte. Ai volantini mi pesava un po', pensavo, senti, io almeno ho imparato a mettere i dischi. E quindi guardavo gli annunci sul giornale, nel giro di 2 o 3 giorni trovai questo annuncio sul giornale, dove c'era scritto... Che giornale, Arena? Penso di sì, penso l'Arena. Sì, forse si poteva guardare, ma è vero, l'Arena. E che diceva l'annuncio? L'annuncio diceva, cercasi DJ donna di bella presenza. E c'era anche, basta, c'era il numero di telefono. Quindi io pensai, vabbè, senti, cioè, in effetti dovevo dire che roba è questa. Però DJ, ho pensato, bene. Va bene, lo so, è proprio. Mio. È il mio. Quindi telefono. La prima domanda non è stata se parlo DJ, ha esperienza di DJ, quindi sì io. La domanda fu, ma lei è di bello aspetto, è di bella presenza. Io, cioè, davvero ero spiazzata di fronte a una domanda così, e gli dissi, guardi, non sono né gobba né zoppa, però io non so se sono di bella presenza, se posso essere definita di bella presenza. Risposta, e allora venga a farsi vedere, e così guardiamo. Ho detto, va bene, dove devo venire? Noi siamo ad Arco, provincia di Trento, è vicino a Riva del Garda, su in cima, tipo... Lato nord del lago di Garda. Lato nord del lago di Garda, Arco non è sul lago, ma è a 10 km, ma tutta l'area del lago, quindi ad Arco ci sono gli ulivi, credo siano gli ulivi più a nord d'Europa. È anche una bella cittadina, quindi annuncio a Ornella che ho trovato, devo andarmi a far vedere in questa, per questo lavoro di questa discoteca. Allora Ornella convoca una sua amica, una sua ex compagna di scuola, tra l'altro aveva cominciato anche a venire in radio, tale Tiziana, che noi avevamo molto assistito, questa Tiziana, perché lei era innamorata di un somalo, tale Mohamed, tutti Mohamed si chiamano, e i suoi ovviamente erano contrari, quindi questo Mohamed quando veniva, non viveva proprio in Italia, non ho mai capito, io gli lasciavo la mia casa. E andavano a scopare a casa mia, ma noi eravamo le uniche che sosteneva questo suo amore interrazziale e quindi Tiziana c'era molto grata, quindi Tiziana venne con Ornella ad accompagnarmi a farmi vedere se ero di bella presenza, mi ripicchiettarono tutta perché mi misero i pantaloni più belli che avevo, una, insomma una cosa che fosse vestita bene. Vabbè, ma perché cioè, eri gnocca. Beh, dovevo apparire di bella presenza. Vedo un attimo se... Scusa, sento... Ciella, buonanotte. Ah no, stop, mettiti, pensavo fosse la Titti, scusate. Niente. E quindi partiamo, arriviamo e c'è chiesta discoteca. E cerca ad Arco. Io non vedo scritte discoteca, non vedo niente. Vedo una casa a un certo punto che... Secondo me corrispondeva, mica c'era Google Maps al tempo, ma corrispondeva un po' con le diritte che mi aveva dato questo al telefono, lì si parcheggia in questo cortile e c'era un omino che dipingeva una specie di staccionata lì, con un pennellino, diciamo, noi stiamo cercando una discoteca, beh, ah sì sì, siamo noi, come, è lei? E dico sì, io sarei venuta per questa cosa, mi avete detto di venire per vedere se ho bella presenza. Dice, guarda, guardi, sì, comunque aspetti, deve arrivare la moglie perché lei se ne intende. Ho detto va bene, aspettiamo. Dopo un po' arriva la moglie, una donnina che aveva avuto 60-65 anni, mi guarda e dice sì sì, può andare, può andare. Dico, c'ho bella presenza. Dico, vabbè, ma com'è qua la cosa, cioè ho capito, ora sono bella presenza, quindi vengo presa in considerazione come funziona, fa presto detto. Lei deve mettere la musica, e qua noi siamo aperti, è sabato, siamo aperti dal martedì alla domenica, ci avrà il lunedì libero, le altre sere tutte, io non so se la lei sarà capace, facciamo così. È sabato, lei resta qua già oggi, sta qua oggi e domani. Poi vede se a lei piace e se piace anche a noi. Io dico, vabbè, ma dai, noi abbiamo le stanze sopra dove lei può dormire, rimane qua e poi ci mettiamo d'accordo. No, vabbè, ma quanto mi date? Io in radio prendevo 200 mila lire. quindi pesa io meno di 200.000 lire, anzi a star qua in capo al mondo forse ne voglio un po' di più, e quindi le fa 200.000 lire, e pensai, cioè, era poco quello che pigliavo in radio, no guarda io ne prendo 400, ne chiedo 400, va bene 400, questo cazzo mi tocca restare, e quindi decisi di restare. Ornella, questa che si chiamava Tiziana, erano un po' preoccupate, quindi dicevano venite anche voi, vi faccio vedere il posto, quindi mi portò sopra e dice questa notte dorme qua, poi forse ci resta, era una stanza con un lettino tutto traballante, piena di ragnatele, sporca, però c'è un letto, poi mi fa vedere il posto di lavoro, la mia postazione, quindi, cioè, ma all'epoca non è che i DJ viaggiassero qui, non esistevano ancora la figura del DJ, non è che viaggiasse con i propri dischi, c'erano i dischi del posto, a parte che era quattro dischi in croce, 4-45 giri di roba vecchia, un po' stricciati, ma c'è quello di guardare, c'aveva due piatti, e dico ma la cuffia per il preascolto? Ma che preascolto? Ma che cuffia? Qua si mettono a mano, oh madonna ho pensato, ah pare la DJ senza ascoltare in cuffia il preascolto, come faccio a beccare giusto da dove partire? No no pare, insegno io, nessun problema, madonna, cioè, però ormai ero lì, ho detto va bene, proveremo, quindi le altre due partono, anche perché a quel punto devo stare lì sabato sera, domenica sera a fare le prove, quindi vado, mi sistemo, dice lei si sistema qua, poi alle 10 scenda, quindi io vado, mi sistemo, loro partono, alle 10 scendo, non c'è nessuno, mi metto lì e comincio, lei accende le luci, si accende un po' di pareti, poi ecco provo un po', lì mi fa, insomma, mi accende il volume, in effetti per quei quattro dischi scarci che c'aveva, se stavo un po' di tempo attenta con un po' di abilità non facevi buchi, anche perché erano tutti dischi vecchi, lenti, non è che facevi discoteca lì, ho detto, ma tutta roba lenta, sì sì, fa qua vanno i lenti, anche un po' vecchia, vabbè ma semmai se poi resta magari compriamo altro di nuovo, vabbè. Quindi io sto lì, faccio le mie prove, a un certo punto, tipo verso le 11, dice rappiamo, quindi cominci, cominci. Bene. Nel frattempo arrivano le bariste, ciao ciao. E io mi metto lì, non c'è nessuno, posso, posso dove non c'è nessuno, è anche sabato. A un certo punto, quando è mezzanotte, arrivano tutte delle donne che si siedono al bar, tutte donne, c'è un posto lesbico. Ma poi guardare bene, mi pare lesbiche, pensate. Che posto strano, ma che stranezza, ma che stranezza. A un certo punto arrivano gli uomini. Arrivano degli uomini, si siedono, vedo queste donne che vanno là e io ero sempre più, non capivo, non avevo gli strumenti per capire dove ero finita. A un certo punto, quando è verso mezzanotte e mezzaluna, la proprietaria era sempre lì dietro alle mie spalle che controllava tutte le varie cose, viene da me e dice, guardi, ora, via via, ora, stasera lo faccio io, perché ora c'è lo spettacolo, c'è da fare le luci, stasera lo faccio io, domani sera veda bene come si fa, perché poi io devo far letto, va bene io, che così domani sera provo a farle. Quindi si mette e ci sono gli spettacoli di Spogliarello. È un night! E io che credevo che non esistessero più da quando hanno abolito la prostituzione legale dal 59, ero convinta. Allora ci sono ancora i night, non sono solo nei film. Io ero convinta fossero nei film. Mi sono dovuta rassegnare che quello era un night, perché poi vidi le varie... E quella fu la mia prima sera. Poi arrivarono i maschi anche. Erano arrivati anche gli uomini. Sì, perché erano arrivati gli uomini. E ci fu lo spogliarello. Anzi, c'erano due o tre spettacolini di spogliarello, ma tanto le luci le fece lei. Quindi io non ero tenuta neanche le cassette dello spettacolo, se lo gestì lei, probabilmente ne cercavano una, perché negli ultimi tempi lo stava facendo lei medesima questo lavoro. Comunque si capì un po' com'era la situazione e disse, ma... Dopodiché scoprì che queste donne che si erano presentate, che io ho detto, madonna, forse sono lesbiche, in realtà quasi tutte loro vivevano al piano di sopra dove vivevo io. E avevano l'obbligo assoluto, assoluto, assolutissimo, di non far salire gli uomini, perché aveva paura di chiudesse per prostituzione. Certo. Tanto che lei, padrone, cioè il suo marito, vivevano a Rovereto, mi sembra. Suo marito poi andava a casa a dormire, e lei invece dormiva lì. E dormiva nella stanza che era davanti alla rampa della scala, dove tu dovevi passare davanti per andare nelle stanze. perché lei vigilava nella notte, non so se avesse qualche campanello o qualcosa, di modo che se qualcuna cercava di introdurre un maschio lo cacciava via, ecco, sostanzialmente capì che era così. E nulla, poi la domenica feci queste cose, cercai di farle con attenzione, queste, perché gli spettacoli erano itineranti, quindi duravano 15 giorni. Questa era una metà spettacolo. Quando capirono che c'era un'altra persona che faceva le luci, vennero da me a farmi tutti i discorsi, mi deve mettere la luce blu perché guarda la luce rossa qua alla pancia, un monte di discorsi, ho detto sì, io sto attento, mi ci finta anche di essere esperta per tranquillizzarle, ma non so se si tranquillizzarono. Comunque, fatto sta che quando venne la domenica, finì il lunedì, disse vada, lei pensa di restare? Disse, ma lei come si è trovata con me? Ah, no, qua va bene come fa, va bene, allora torno domani sera. E così feci, andai a Verona, dissi, torno, anzi forse mi venne a prendere Ornella, perché sapeva che lunedì ce l'avevo libero. E tornai e cominciai a conoscere un po' il contest, cioè che in qualche maniera era una roba di fuori per me. Io non credevo esistesse questo mondo. Cioè, poi tanto dovevo passarvi tutta la giornata, tutto il giorno, quindi mi unii alle altre che dormivano sopra. La nostra vita era così scandita che io prima di loro andavo giù anche nel tardo pomeriggio, eccetera, tanto che qua cazzo mi pareva. Loro arrivavano lì alle 11 di sera, facevano nottata, normalmente andavano a letto alle 6 del mattino perché gli chiudeva verso le 5. Si andava a pranzo, c'era una specie di ristorantino lì vicino, mi ricordo com'era buona la carne salata. Si andava a pranzo verso le 2, poi era estate comunque. Qualcuno di loro andava in piscina, c'era una piscina lì vicino, io che avevo imparato che esisteva la piscina, qualche volta sono andata anch'io, perché poi Ornella su questo mi ha un po' insegnato a stare a galla, quindi ero già molto più smaliziata di come sarei stata 3-4 anni prima. E cominciai questa vita, fra l'altro conoscendo che mi proteggeva tantissimo, avevano un buttafuori, tale Giorgio, che aveva fatto un incidente, era ritornato a lavorare da poco e aveva tutto un taglio qua, faceva impressione perché era un omone enorme, completamente pelato, pregiudicato per non so che reato, che mi dissero, con queste cicatrici che partivano da qua, sembrava uno di un film. E questo Giorgio veniva sempre da me. E si confessava sempre perché aveva la moglie lesbica. Era una che faceva le internes lì, che lui aveva pure sposato, però poi si erano separati perché lui era troppo geloso. Ma lui non era geloso dei clienti perché tanto lo sapeva che l'aveva sposata, che faceva già le internes, ma era lesbica. E in realtà l'aveva sposato un po' così per copertura e lui questa cosa non riusciva a farsela mandare giù. Allora io, visto che Giorgio era così, che non aveva problemi con le lesbiche, gli spiegai che anch'io ero lesbica e che avevo una compagna che era Ornella, che avevo che quell'altra era l'amica Tiziana. E lui disse no, ma falle venire, falle venire, venite a dormire a casa mia. Lui aveva una casa subito prima di Riva del Garda, non mi ricordo come cazzo si chiama, un paese a Torbole, a casa a Torbole. Disse no, se vengono, guarda, mi fa piacere. Io dissi, vabbè, cioè anche perché bene o male avere Ornella e quell'altra che venivano a passare una giornata assieme, magari un sabato assieme, mi era anche che mi sollevava, ecco, da star lì in questo delirio tutta la settimana. Mi ricordo che arrivarono. Nel frattempo, ovviamente con Giorgio ci uscivo a volte il pomeriggio, cioè ci uscivo nel senso, veniva a prendermi, andavamo a bere, andavamo. Mi portavo in montagna, poi voleva insegnarmi a guidare perché io non c'avevo la patente, l'ho pigliata dopo. Mi ricordo gli ho strisciato tutta la macchina in montagna, ce l'ho tirata su. Proprio non ha mosso un dito, no, ma vado da un mio amico carrozziere che lui non costa niente, mi costa niente. E quindi mi schivai anche la sgridatura di Giorgio. Poi arrivarono, guarda, fu davvero gentilissimo, ma però lui gli piacque tanto Tiziana. E quindi voleva fare la corte a Tiziana, ma Tiziana era sempre innamorata di Mohamed, che nel frattempo non tornava più, era sparito, non lo vedeva tipo da un anno sto Mohammed, non si era mai più fatto vivo. Però lei era dedicata a Mohammed e quindi non voleva nessun altro, quindi Giorgio fu molto rispettoso, mi ricordo, lei venne lo stesso, e quindi aveva una specie di camerina in cucina da dette a Tiziana, la sua camera matrimoniale la dette a me, Ornella, e lui poveretto dormì in una specie di strapuntino in corridoio. No, guarda, fu carinissimo sto povero Giorgio. E quindi nulla, cioè, passavo il tempo così. Questo Giorgio, tra l'altro, era un po' un delinquente, ecco. E l'entranese? E l'entranese, cioè, anche con quelle... Intanto mi volevano tanto bene quelli degli spettacoli, perché ho visto che stavo lì, visto che avevo capito che queste luci erano fondamentali per loro, anche perché le entranese duravano fino a 30 anni, inventavano delle età, magari avevano 35 anni, dicevano di averne 30 per poter lavorare, però a volte purtroppo si vede, cioè si vede, sono passati 30 anni, la pancia eccetera. Se tu riesci a fare delle luci particolari riesci a farlo vedere. Quindi per esempio una cosa da non usare mai come luce è il rosso, che lo so che magari il rosso in certe cose ti fa, che era quello che faceva la tizia. Io facevo le prove di modo da, a seconda di come si girava, illuminare da un lato oppure dall'altro, d'altra parte dovevo pure passare il tempo. Quindi ero diventata molto appassionata di questa cosa. Poi una volta alla settimana andavamo a Riva del Garda, dove loro in trenese andavano a comprare i vestiti, spendevano uno spartonfo di vestiti, e io andavo a comprare un po' di dischi, c'era un venditore di dischi, compravo i dischi un po' più moderni. Quindi mi ricordo, tipo era l'anno in cui comprai, non so se era uscita allora, c'era Luna di Togni, cioè, mentre qualcosa di un po' più, c'era In the Wall che era uscito quell'anno lì, quindi anche un po' cambiare quella cosa, capisco i lenti. Ogni tanto arrivava la padrona e diceva, metti i lenti, un po' più di lenti, Mentre allora io trovai quest'altra strategia che avevo già un po' studiato a Radio Popolare. Io a Radio Popolare avevo una trasmissione di Revival, ma Revival degli anni 80, primi anni 80, era gli anni, cioè mettevi la roba degli anni, prima parte anni 60, che aveva della roba anche interessante da mettere, cioè, e quindi quella era meno soggetta ad essere accusata che non è un lento, e però tipo mi ricordo scoprì che gli piaceva tantissimo che gli mettevo quella di Vianello, come si chiamava? Wally Wally, il ballo dei Batussi, i Batussi, quello lì. E loro sapevano tutti i passi, e questa cosa che inizialmente la proprietaria era contraria, scoprì che invece era uno spettacolo nello spettacolo, e gli piaceva anche ai clienti. Quindi vabbè, io facevo un po' questa cosa, fatto sta che dopo comunque, non tanto dopo una settimana che ero lì, a un certo punto mi prende da una parte questa proprietaria, fa ma senta, lei, non è che a lei interesserebbe fare l'entronese? Io dicevo no. E non insistette più. Quindi capì, ecco perché cercavo la DJ, cioè questa DJ, donna, bella presenza, doveva diventare l'entranese. Era un modo per trovare delle entranese nuove, perché altrimenti era sempre quel giro che poi giravano più o meno negli stessi locali, i clienti dopo un po' si stufano. Però devo dire che con me non fu affatto insistente, tanto che quando me ne venni via disse, ah, come mi dispiace, pensi che lei è l'unica che è venuta a fare la DJ ed è rimasta a fare la DJ. Fatti quanto sei rimasta lì. Cosa c'è? Vai qua, dai. Cosa vuoi? Pianeta. Vai, stai lì sotto. Quanto sei rimasta a fare la DJ? 2 mesi. L'estate. Poi pensai, no. Basta. Cioè, sì, non era un lavoro che potevo. Tra l'altro mi feci mettere in regola come DJ, perché mi pagava in regola. Anche perché appunto non poteva permettersi di avere personale non in regola, quantomeno le bariste, ma chi stava dietro al banco doveva avere un po' la certezza che non era attaccabile. Quindi io ho riscritto all'ufficio di collocamento di Verona e partii a dare un lunedì all'ufficio di collocamento perché appunto qua mi hanno assunta e quindi voglio la registrazione nell'ufficio di collocamento. Mi ricordo che andai e questo disse ma qual è la qualifica? La DJ. Non c'è la DJ come qualifica, ma questa è la mia qualifica. No, mi dice cosa fai? Ti pulisci il culo? No, eh. E quindi alla fine tanto fatto, mi ha scritto DJ sul libretto di lavoro, perché io volevo quello scritto. Quindi sei stata una delle prime DJ in Italia, dai. Sì, però poi ho finito subito, perché sì, dopo un po' cioè diventava pesante, anche perché sempre in quel periodo, pur tanta, sono sicura, perché il 2 agosto ci fu la strage di Bologna. Sì. E quella... cioè, a parte che la mamma si agitò tantissimo perché non sapeva bene dove io fossi. Ah sì, quel giorno lì proprio. Sì, e quindi se magari c'era, eccetera. A parte questo, però io ero là e il lunedì, quando tornai a Verona, ci fu un mio amico che poi era quello che mi stava dietro ai primi tempi, quel Renato di cui ho parlato prima, lui faceva il corriere e lui aveva lasciato i bagagli a Bologna. Perché sai che magari dormivano poi in un posto e così via. Lui era sul treno, arrivò a Verona, aveva lasciato i bagagli a Bologna e scoppiò la bomba. E quindi doveva andarsene, veniva a ritirarsi la sua roba a Bologna. E quel lunedì mi chiese se lo accompagnavo. E quindi lo accompagnai. Fu una cosa scoppiata da poco, pochi giorni. Quindi se sei andata a Bologna l'hai vista? E quindi sono venuta a Bologna con lui col treno. La stazione non c'era più, quel pezzo. Cioè, perché arrivando da Verona, ora tu arrivi ai binari ovest. Io credo che lì non esiste, non so al tempo se si arrivasse ai binari ovest, non me lo ricordo, però si arrivò ai binari, ma il binario 1 è quello che non c'era più, quindi si era abbastanza spostati, e ci portarono... dove io non so che treno fosse, se era un treno dedicato o che, perché ci portarono dopo oltre il binario est, perché al binario est ci sono dei caseggiati e tutti i bagagli che avevano trovati nella stazione dopo lo scoppio li stavano ammassando là. Quindi si arrivò, ci portarono là e questo disse, non so, quindi sono un collega, sono venuto qua per questo, era un ragazzo giovane. A cercare, perché ho lasciato il bagaglio qua, sono venuto a recuperare la mia borsa, perché gli avevano detto esplicitamente di andarsela a prendere, in modo da togliere le loro, per non far casino, per dire io sono vivo. E mi ricordo l'impressione che gli fece questa, c'era questo enorme mucchio di bagagli, di borse, usavano ancora, sai, le borse da ginnastica, quelle, erano molto diffuse, quelle... a borsa, proprio a borsone dure, di solito di plastica, magari con il logo della squadra di calcio piuttosto che... E mi ricordo che c'era il mio borsone, era blu, vedi se vedi i borsoni blu. Io tanto non ero in grado di distinguere, mi sono messa con lui a cercare come me l'aveva descritto e mi ricordo che ogni borsa, mi ricordo in particolare una borsa rossa, che non so perché mi mise in mente che quella borsa rossa era di qualcuno morto. E cioè queste borse che erano di vivi, che erano di morti, no, fu peso questa, non solo, tipo dopo questa vicenda, poi tornai a Verona, dopo questa vicenda, io lunedì dopo, non paga, lì c'era difficoltà anche a telefonare, non c'erano cellulari, eccetera, arrivo a Verona, e non so come Ornella mi fa avvertire, io dovevo andare a casa sua, che è in ospedale da suo padre che sta male, sta bene suo padre, quindi mi fa capire di andare in ospedale, quindi io vado in ospedale a Borgo Trento, arrivo, chiedo il nome di suo padre, mi mandano in una stanza e scopro che suo padre sta morendo, tra l'altro la sua mamma e la sua sorella erano andate al mare, lei era sola, e volevano dargli l'estrema unzione perché praticamente aveva fatto un infarto, un piccolo infarto senza rendersene conto, non stava bene è andato in ospedale a farsi visitare. Quando è stato lì ha fatto un ulteriore infarto, ma a questo punto molto forte, quindi l'hanno ricoverato. Ha recuperato Ornella, che è andata lì, nel giro di 3 ore lui era in fin di vita e gli voleva andare in estremunzione. Ornella non si capacitava, diceva fate morire, non voglio preti, quindi stava litigando questo prete che voleva dare l'estremunzione. E quest'uomo, io non capivo se capivo o no, era tipo in coma perché aveva gli occhi aperti, però erano quegli occhi come coperti, cioè che non capivi se li vedeva o meno, anche se erano aperti, anche se ti sembrava che guardasse intorno. E Ornella era spaventatissima. Alla fine ho detto, sai Ornella, siediti, stai lì, lascia perdere questi. Quando è arrivata un'altra persona, anche il prete si è calmato, se n'è andato, l'ha lasciata perdere perché era davvero una roba di fuori. E sono stata lì con lui e capivo che stava morendo, un giro di 10 minuti è morto. L'ho proprio visto morire, cioè i 3 respiri che avevo sentito narrare, eccetera, l'ho proprio visto morire. A quel punto Ornella non sapeva che pesci prendere, quindi non so, sono andata io a casa sua a prendere il vestito per vestirlo. Bisognava recuperare la sua mamma, il suo fratello, la sua sorella, quindi tutto questo ambaradan. Dopo 2 giorni hanno fatto il funerale e io dovevo sparire, dovevo non esistere più. Mi ricordo, volevo anche andare al funerale, ho avuto il permesso da Ornella di andare al funerale, però di stare in fondo alla chiesa, non farmi vedere che riconoscevo. Così che ho fatto. E dopo poco, a quel punto anche Ornella cambiò la vita, io, cioè a quel punto finivo in 2 mesi che ero su, quindi io dissi è finita anche l'estate e ho pensato io devo tornare a Verona, cioè che cazzo sto a fare là, cioè, e così feci. E infatti mi disse mi dispiace, l'unica che è venuta a fare la DJ è rimasta a fare la DJ. E me ne torna a Verona e così finisce la storia del night. Ma in che anno siamo a questo punto? Terzo? Siamo 80. 80. 1980. Ah, certo, Bologna. Sì, sì, certo. Per questo me lo ricordo l'anno. Certo, perché se succede qualcosa di particolare di tutto ciò, in realtà io secondo me li dilato i tempi, perché per me sono stati più lunghi allora di quelli che erano in realtà. Vabbè, il tempo di Radio Popolare, il tempo dei volantini. Cioè, alla fine dal 78 all'80 sono 2 anni, non possono essere state 2 anni volantini e 2 anni a Radio Popolare. È vero che per un periodo le due cose si sono sovrapposte, ma cioè, secondo me forse il periodo è stato anche più breve. Vabbè, è che comunque eri molto giovane, le cose sono sempre molto intense, quindi durano. Sì, quindi magari la mia percezione è che fosse di 2 anni, magari è 1 anno. E comunque ecco, con il 1980 tornai a Verona e pigliai la decisione, forse devo lavorare un lavoro serio. Questo secondo me a questo punto sono 8:30. Smettiamo. Ti scusa, non è mai più. Chiamala. Però, io stacco. Sì, perché sì, siamo al lavoro serio.